Sono particolarmente onorato di porgere questo palazzo, che è il simbolo dell'amministrazione regionale insieme sede degli uffici e che in questi due giorni è anche centro logistico dei vostri lavori, il più cordiale saluto e benvenuto personale della regione tutta. Non tocca a me sicuramente svolgere il ruolo alcuno di introduttore ai significati e ai contenuti di questo incontro di studi storici che si avvale, come tutti abbiamo potuto constatare leggendo il testo del programma, dell'apporto altamente qualificato di studiosi stranieri, esteri ed italiani di particolare competenza. Nel ringraziare gli organizzatori per aver scelto Trento e specificatamente il Palazzo della Regione a sede di questo convegno, io vorrei solo permettermi di sottolineare due aspetti che mi paiono emergere da questa iniziativa. Il primo è la significativa convergenza di intenti che si è realizzata tra forze culturali e scientifiche che operano stabilmente nella nostra città e nella nostra regione per la promozione e l'organizzazione di questo momento di ricerca storica. Quando apprendiamo infatti che l'attuale convegno è frutto della volontà collaborativa e dell'apporto delle energie scientifiche del Dipartimento di Metodologia, Teoria e Storia Sociale della Libera Università degli Studi di Trento, dell'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento, della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, in collaborazione con la Regione, dobbiamo dire che un passo veramente determinante è stato compiuto ai fini della qualificazione di questa nostra città e di riflesso di tutto il territorio regionale, a livello di struttura e di dinamica culturale e scientifica, di base o di vertice, come meglio si preferisce dire. Iniziative di questa portata, se non vogliono solo limitarsi ad essere episodi sporadici della vita di una comunità, motivate da una mera ed effimera scelta del luogo, devono trovare radice in strutture permanenti operanti nel territorio. Ebbene, io credo che questo livello qualitativo della nostra città e nella regione lo si può raggiungere ed anche il presente convegno ne è un esempio. Se si continuerà su questa linea convergente di forze, di strutture e di mezzi, la Regione, per parte sua e per quanto è nelle sue possibilità, non mancherà a questi appuntamenti e a questi sforzi, anche perché è nella sua natura di ente prevalentemente politico e non più di gestione promuovere e assecondare tutto quanto può contribuire ad elevare la dotazione culturale e politica della nostra comunità e la sua capacità di interpretazione e di comportamento in tal senso. L'argomento prescelto come tema del presente convegno è occasionato, e questo è il secondo aspetto cui vorrei brevemente accennare, è occasionato dalla ricorrenza del secondo centenario della morte di Maria Teresa. Penso che al di là degli approdi scientifici cui questa iniziativa perverrà, essa potrà giovare anche a noi per approfondire alcune ragioni della nostra fisionomia storica e per arricchire la comprensione delle nostre vicende, senza dire di che interpretazione e lettura, fra virgolette, del periodo da voi trattato potranno giovarci anche oggi nell'impostare e nel condurre il governo delle cose locali in una regione come la nostra, così complessa e delicata nel suo sistema autonomistico attuale ed insieme così ricca per derivazioni storiche, politiche e giuridiche che si ricollegano con continuità ammirevole al passato. In effetti, se il convegno ha come scopo quello di delineare l'intero arco di svolgimento dell'esperienza statale austriaca moderna, è pur vero che è dedicato a Maria Teresa non soltanto per la ricorrenza cronologica bicentenaria della morte di questa grande sovrana, ma anche perché l'opera dell'imperatrice, in trono dal 1745 al 1765, può essere considerata il punto centrale e più alto di quel processo, e ciò in due sensi. Anzitutto perché Maria Teresa ha saputo recuperare tutte le tendenze, i tentativi, gli sforzi, le idee che l'avevano preceduta già alla fine del Seicento, nel senso della modernizzazione, e poi perché lo spirito complessivo dell'intervento teresiano non si è esaurito con la sua morte, ma ha continuato a produrre effetti anche nel secolo successivo. Sicché lo trovo paradossale affermare che Maria Teresa ha cominciato a vivere quando ha cessato di regnare e di essere presente sulla scena del mondo. Ma nonostante questa ottica larga adottata dal vostro convegno, io credo che occorra in particolare sottolineare il significato specifico che Maria Teresa ha avuto per la nostra terra. È vero che all'epoca di Maria Teresa il Principato di Trento era ancora autonomo, tuttavia gli influssi che l'impero ha esercitato anche qui sono stati molto grandi. Basti accennare al campo scolastico e culturale e al concomitante fatto che a Rovereto due secoli fa, esattamente nel 1775, c'era a Rovereto l'Austria che comandava, venne istituita la scuola normale, mentre a Trento si è dovuto aspettare l'Ottocento e ringraziare l'iniziativa privata del benemerito beato Stefano Belesini. Allo stesso modo va anche segnalato il riconoscimento ufficiale dell'Accademia dei Leggiati in Rovereto, sempre d'opera di Maria Teresa nel 1753. Se poi dal campo culturale e scolastico si passa a quello fiscale, ritengo si possa fare analogo discorso. L'introduzione del catasto richiese un processo molto lungo anche nell'impero, a causa delle comprensibili difficoltà sollevate dai ceti privilegiati verso un sistema di tassazione più razionale e perciò stesso più egualitario. Nel Principato di Trento il catasto per sé non doveva ricevere applicazione automatica. Tuttavia, le pressioni perché esso venisse adottato furono altissime e alla fine del 1777 ebbero successo, nonostante l'opposizione strenua dei due ceti privilegiati cittadini collegati fra di loro, i patrizi ed il capitolo. Signori convegnisti e illustri relatori, al di là di questi doverosi e rapidi accenni circa gli influssi che ha avuto sulla nostra comunità l'opera di Maria Teresa, quello che io finora ho ritenuto manifestare vorrei fosse compreso come esigenza globale che nasce in chi si trova oggi per ruolo politico a governare una popolazione in momenti estremamente difficili. Esigenza che non è solo di certezza conclusa di competenze costituzionali in base alle quali ordinare e operare, esigenza che non è esclusivamente di disponibilità di mezzi economici per fronteggiare i compiti istituzionali con senso di promozione e non solo con puro atteggiamento notarile o rigidamente garantista, ma soprattutto esigenza che è di accrescimento di cultura per una interpretazione adeguata e dinamica della comunità e del suo corretto sviluppo. Ed è certo che senza una lettura ed una comprensione profonda della nostra storia, non soltanto in termini cronacistici, ma nei suoi aspetti istituzionali, giuridici, amministrativi, non è possibile muoverci con sicurezza neppure nel nostro presente. per quest'opera che voi compite e che sono certo risponda ad una nostra esigenza oggettiva di cultura, io vi porgo nuovamente il mio e nostro ringraziamento e l'augurio di proficuo lavoro. Grazie. Ecco, dopo la parola dell'amministrazione locale, regionale, la parola dell'amministrazione centrale, in modo da rimanere in sintonia con la nostra, con lo spirito, con l'aula dei nostri lavori. L'onorevole Kessler, sottosegretario di Stato degli Interni. Le difficoltà, no? Mettendo subito il discorso di Maria Teresa con il discorso dello Stato italiano in questo momento. No, io prendo la parola in questo momento soprattutto come presidente dell'università e presidente dell'Istituto Trentino di Cultura. Naturalmente porgo anche il saluto del governo. Ma l'aspetto specifico è il primo. Questo innanzitutto non per togliere tempo ai vostri preziosi lavori, ma soltanto per rivolgere innanzitutto un saluto cordiale e un benvenuto a tutti voi che siete intervenuti a questo convegno, che fra il resto, oltre alla numerosità dei partecipanti a convegni così altamente specializzati, poi in sostanza fa estremamente piacere e offre a noi anche la possibilità poi di incontri nuovi con persone che sono interessate comunemente con noi a problemi, a conoscenze culturali e storiche, eccetera, che proprio convegni come questi offrono e prestano la possibilità. Un ringraziamento alla Regione che ospita così bene, forse siete stati un pochino pessimisti, e questo è sempre preferibile, basta però rimediare in maniera tale che la gente si possa sedere. Un ringraziamento, dico, per l'ospitalità e soprattutto un ringraziamento a coloro che hanno organizzato questo incontro e che hanno lavorato, in modo particolare all'inizio, i relatori, soprattutto quelli che provengono da fuori, anche naturalmente i nostri locali, ma quelli che provengono da fuori, i relatori, organizzati poi dal nostro professor Schiera, e credo che bisogna dare atto e merito e riconoscimento alla facoltà, cioè all'Istituto di Metodologia e di Scienze Storiche della Facoltà di Sociologia, che si è sobborcato alla maggiore impegno nell'organizzazione di questo convegno su Maria Teresa, che la prima parola che viene spontanea è un sentimento di soddisfazione che venga fatto a Trento in questo bicentenario. Ed è il primo, mi pare, che si fa, anche se poi lungo l'anno mi pare che sono previsti altri impegnativi convegni su questo argomento. Naturalmente Milano, Lombardo Veneto farà naturalmente grande anche in questo clima di questi anni così molto rivalutativo di esperienze che poi nella storia avevano ricevuto via via diversificati apprezzamenti. E a Trento, nel Trentino Alto Adige, indubbiamente Maria Teresa è uno di quei nomi di regnanti e di imperatori che sono ancora oggi, attraverso i secoli, bisogna dire, nella coscienza, vorrei dire, del popolo, nella conoscenza. Così, ma Maria Teresa, e qui ancora tutti i nostri, in definitiva richiama, poi magari dal punto di vista specifico, conoscitivo, non granché, ma comunque questa figura che nella storia nostra indubbiamente ha avuto una grande importanza. E qui il taglio, ecco, mi permetto di dire, il taglio che mi passa, e qui magari dico qualche cosa che in mezzo a tutti i professori e specialisti come siete voi, naturalmente bisognerebbe aver paura a parlare, ma poi ai politici in fondo perdonate questo, non perdonate quasi niente, ma insomma almeno questo sul piano così, casomai perdonate. Ma il taglio che è stato dato al convegno mi pare particolarmente apprezzabile e particolarmente attuale. Questo lo dico qui per il nostro Trentino Alto Adige e questo lo dico, vorrei dire, soprattutto, ecco, per qui sì, per l'Italia, per la problematica culturale, il dibattito che anche in questo momento informa molta parte del dibattito politico in Italia, e credo che qui possa trovare effettivamente un richiamo pertinente. Per quanto riguarda il nostro Trentino Alto Adige, indubbiamente il governo, diciamo così, di Maria Teresa, indubbiamente è stato uno dei momenti nei quali, da un lato, la statualità, mi esprimo così, forse la statualità moderna, l'esigenza quindi dell'organizzazione moderna dello Stato è venuta forse abbastanza duramente, a contatto e quindi anche in conflitto con quella che era l'autonomia sulla quale si era basato il concetto di autonomia, sul quale per tanti secoli invece era stata basata soprattutto la vita di questa nostra regione, il Principato, eccetera, eccetera. E quindi, da questo punto di vista, credo che è un richiamo e un'occasione per riflettere un po' su questo anche nella nostra regione, stante le nostre attuali regole istituzionali, credo che non è tutt'altro che fuori luogo. Ma soprattutto ritengo che sia molto importante, ripeto, per il dibattito che nel nostro paese si sta sviluppando in questo conflitto fra centro e periferia, fra l'esigenza dell'organizzazione moderna di uno Stato che come tale e istintivamente è negatrice delle diversità locali, o trova o ritiene di incontrare nelle diversità locali, nelle esigenze di autonomia locale, un freno a quella che è un'organizzazione tendenzialmente unitaria, quale è quella che è uno Stato moderno e soprattutto l'esigenza di efficienza di uno Stato moderno normalmente postula. E non per niente, poi da noi che non abbiamo antiche tradizioni in Italia di autonomie, le regioni, la vita delle regioni, la nascita delle regioni, è stato un discorso ed è ancora attualmente un discorso molto difficile. Ecco, dico l'attualità, perché anche in questo momento la vita così angustiata e il rapporto così indefinito e che stenta a definirsi fra Stato e regioni in Italia, io ritengo che in definitiva sia ancora un tratto di questo conflitto che normalmente viene fuori e che, ripeto, credo che proprio nel Settecento eccetera abbia trovato il momento del primo impatto con la civiltà moderna, con la società qui industriale eccetera. Da questo punto di vista, ecco, sarà interessante vedere anche quello che verrà fuori da alcune di queste, purtroppo non posso star qui a sentirle, ma comunque le leggeremo di sicuro, no? Perché i titoli sono estremamente importanti e estremamente stimolanti da questo punto di vista. Io non lo so, il conflitto credo che è permanente questo, in un certo senso. Io non azzardo, ma forse aveva ragione il Vito, corsi e ricorsi. Ci sono momenti nella storia dove è necessario, per avanzare, unificare, anche con una qualche durezza, o dando o sottendendo momentaneamente certi valori. Ma poi vengono i momenti all'inverso dove la ricerca, la valorizzazione della diversità, che è quella che si sta facendo in Italia, soprattutto in questo ultimo periodo, la conoscenza e quindi la considerazione nuova della diversità delle culture locali e quindi della partecipazione alla costruzione generale anche di tutte queste cose diverse, organizzate con difficoltà, ma organizzate ad un fine unitario di avanzamento dello Stato e della società, ecco, reputo che sia conflitto col quale bisogna abituarsi probabilmente a lavorare se vogliamo che effettivamente la partecipazione generale o il massimo possibile di partecipazione anche delle diverse culture e delle capacità di un intero popolo siano messe al servizio dell'avanzamento e che invece con questo è anche l'antidoto più diretto e più preciso all'autoritarismo che anche, ripeto, per fini buoni, qualche volta l'esigenza di efficienza dell'amministrazione moderna è portato a far prevalere. Basta. Quindi mi complimento e naturalmente fatto, anch'io sottolineo come ha fatto il Presidente della Giunta regionale, il fatto della collaborazione che si è determinata questa volta fra, da un lato, l'università, sì, metto la facoltà di sociologia, l'università, la società di scienze storiche nostra che poi quest'anno fa anch'essa una commemorazione, no? Perché c'è il 60° quest'anno di vita, e dall'altra l'Istituto Storico Italo-Germanico, che dico materia specifica vorrei dire, ecco, la collaborazione di questi nostri istituti locali credo che comincia a dare la prova di quello che può significare effettivamente per questa nostra piccola, ma per noi importante terra, ed anche per i problemi proprio di conoscenza storica, per i problemi dell'avanzamento culturale, che è tanto necessario e che continuiamo a constatarlo sempre di più. Auguriamoci, ecco, vedere qui tante persone, oggi mi si è un po' aperto il cuore, anche vedendo soprattutto questi giovani, perché una delle mie, lo sapete, una delle mie lamentele è sempre quella che le strutture in definitiva sono fino adesso si sono rivelate esuberanti rispetto alla richiesta. Probabilmente gli inizi devono essere così, però bisogna che questi inizi poi vadano avanti e che invece tutte queste strutture siano effettivamente utilizzate. Questo è l'augurio, congiunto a quello di un successo, di buon lavoro e per i nostri ospiti che vengono fuori anche di buon soggiorno qui in Trentino, concludo e vi ringrazio. Prego, grazie, ecco appunto, io denuncio il mio pessimismo di fondo, me ne scuso, avevo previsto un'affluenza minore, d'altra parte l'accoglienza di questa sala è così alta che era un peccato andare a finire in uno stanzone enorme, eccetera. Io spero che adesso forse qualche rimedio lo portiamo con le sedie. Ecco, ne approfitto però per ricordare una cosa, per non poi rubare altro tempo dopo, che noi dovremo fare di tutto per mantenere i programmi, gli ordini del giorno che abbiamo previsto. Questo sarà molto difficile perché naturalmente le relazioni che i colleghi che sono venuti a Trento hanno portato con sé sono relazioni molto lunghe, molto diffuse, eccetera. Allora io penso che noi dovremo in questo caso insistere su quella che è stata la caratteristica di sempre dei nostri incontri trentini, cioè una caratteristica più fondata sulla discussione che non sulla lettura delle relazioni. Quindi io credo che di poter chiedere ai colleghi appunto relatori di essere anche abbastanza bruschi nel taglio di quello che loro avranno da dire quando parleranno, in modo da poter lasciare il maggior spazio possibile alla discussione. Ecco, io credo che i lavori nel frattempo di restauro qui abitativo sono terminati e quindi possiamo davvero iniziare. Devo subito dire che soprattutto anzi questa mattina, la prima mattinata dei lavori, sarà segnata. Professor, Monsignor Roger, la prego, c'è una poltrona che sembra fatta per lei, qui proprio in prima fila. C'è ancora una poltrona a disposizione, prego qualcuno di... Il professor Matisse, che è un relatore, che era giù in fondo. Ecco, prego che... Ecco, dunque, stavo dicendo, purtroppo questa prima mattinata porta subito due disguidi che sono rimediabili ma che lo stesso peseranno un po'. La prima relatrice, che è la professoressa Raffaella Gherardi dell'Università di Bologna, non è presente perché proprio oggi credo stia cercando di aumentare il tasso demografico, insomma, italiano, ecco, tra oggi e domani. Io quindi mi permetto di rivolgere appunto auguri felicissimi a questa, che tra l'altro è la mia allieva, e anzi spero che questo figlio che nascerà sotto gli auspici di Maria Teresa possa avere una vita fortunata davanti a sé. Ma anche se è un figlio va bene. Purtroppo c'è un altro disguido, la professoressa Klingenstein, che ha mandato una relazione tra l'altro ricchissima, sabato ha inviato un telegramma in cui annuncia che improvvise e impreviste difficoltà istituzionali, cioè relative all'istituto in cui lei lavora, insegna, le hanno impedito di venire a Trento. Ecco, questa per me è una grossa così perdita, nel senso che soprattutto per quel che riguarda la discussione la professoressa Klingenstein sarebbe stata molto importante. In ogni modo la relazione sua sarà letta. A questo punto io allora do inizio ai lavori leggendo personalmente una parte della relazione della signora Gherardi. Allora. Cercherò di parlare lentamente in modo da consentire alle gentilissime traduttrici di seguire il discorso che mi è già stato detto, complicato dal punto di vista stilistico, quindi farò il possibile. Leggerò solo una parte della relazione perché la stessa è troppo lunga per consentire la lettura integrale. I testi comunque delle relazioni sono praticamente tutti già a disposizione, il che garantisce da una parte, spero, una pubblicazione rapida degli atti, purché le nostre capacità editoriali siano in grado di continuare con la stessa efficienza con cui hanno saputo muoversi fino ad oggi. E d'altra parte questo fatto consente anche a chi eventualmente ne facesse richiesta, purché non fossero troppe le richieste, di disporre di fotocopie. Il titolo della relazione è Itinerario di una Staatswerdung, il patrimonio austriaco di modernizzazione fra XVII e XVIII secolo. Inizia con una citazione in tedesco. Die Folge der Zeit und so viele erwünschte Successe in Kameralibus großer Herren, die wir in diesem Seculo gesehen, haben bereits bewiesen, wie nützlich sich dieses gegenwärtige Buch gemacht und die Principia Economiae mutatis mutandis in manchem Lande abgegeben habe. Con questo aperto tributo di riconoscenza, prestato a 40 anni dalla morte dell'autore e 70 anni dopo la prima pubblicazione del suo berühmten Werk, si apre la Vorrede preposta nel 1753 all'ennesima riedizione di una delle opere più significative del grande mercantilismo austriaco. Österreich über alles, wann es nur will, del francopolita Philipp Wilhelm von Hörnig. L'anno della prima anonima edizione dell'opera suddetta, il 1684, l'anno cioè che vede l'impero e i territori ereditari asburgici stretti fra la minaccia turca a oriente e quella francese a occidente, ci riporta a un clima ben diverso da quello degli inizi della seconda metà del XVIII secolo cui fa riferimento la Vorrede citata. Quest'ultima, ricordando emblematicamente a più riprese i successi in Kameralibus ottenuti in diesem Seculo da parte di Großer Herren, le straordinarie Entdeckungen in der Kameralwissenschaft uscite sulla scena bei unseren Tagen e tutti gli andere gute Kameralisten ora attivi in area tedesca, traccia le sicure coordinate di fondo di una temperie culturale e politica, quella del trionfante cameralismo, appunto, ormai saldamente affermatasi sulla base di radicali mutamenti costituzionali. Il consolidamento della potenza prussiana, quale Einheitsstaat, ormai perfettamente costruito su solide strutture amministrative, costituisce per tutta la prima metà del Settecento la matrice prima e insieme il motivo ispiratore dominante dell'esperienza cameralistica tedesca. Quest'ultima, proprio in quanto facente perno sull'accentrato e unitario stato di polizia prussiano, ha alla sua base una Verfassung del tutto diversa da quella del mercantilismo viennese, il quale, in parte ancora velato di tinte imperiali, nel tentativo di fare della politica di Leopoldo I, il baluardo contro l'incombente egemonia economica francese, era stato all'atto pratico in gran parte vanificato all'interno dei complessi meccanismi amministrativi della monarchia asburgica del secondo Seicento. A metà del Settecento, nella già iniziata stagione delle riforme teresiane, dopo le diverse tappe dell'ascesa della monarchia austriaca a grande potenza danubiana e dopo l'emblematica dichiarazione della inseparabilis et indivisibilis unio dei territori asburgici, proclamata nella lex perpetuo valitura della prammatica sanzione 1713, anche la Machtpolitik asburgica sembra aver trovato una cornice ormai distante da quel groviglio di problemi esteri e interni che aveva costituito l'insicuro terreno costituzionale dei progetti di riforma di marca mercantilistica che soprattutto in campo economico si erano susseguiti per tutta l'epoca di Leopoldo I. Se sul piano internazionale il regno di quest'ultimo fa segnare momenti fondamentali nell'ascesa della monarchia austriaca a Großmacht, e in tal senso la pace di Ryswick del 1697 e di Karlowitz del 1699 marcano rispettivamente il culmine dei successi della politica imperiale nei confronti della Francia e dell'impero turco, sul piano interno molto più incerti sono i progressi compiuti dall'imperatore quale assolutistico Landesfürst. Nell'ambito dell'ellisse Landesfürst Landstände, la struttura federativa della monarchia austriaca, la relativa autonomia conservata dai singoli territori e fra questi particolarmente dall'Ungheria, e il policentrismo istituzionale e amministrativo in cui si configura il rapporto diarchico fra principe e ceti, sono i sintomi più palesi di un processo costituzionale che pone i territori asburgici del tutto al di fuori dell'impianto modellistico dell'assolutismo nella sua accezione più pura, lontana dal costituire un Einheitsstaat di stampo francese. La monarchia leopoldina non si configura tuttavia nemmeno come la semplice somma dei territori ereditari. Essa rappresenta piuttosto la fase centrale di uno Staatswerdungsprozess ancora in corso, nel quale emergono in tutta la loro potenza, di volta in volta scontrandosi o cercando qualche sorta di composizione, diverse Triebkräfte. Nel quadro della monarchia asburgica, quale monarchische Union von Ständestaaten, affiora un'intricata rete di dualismi che complica ulteriormente la dualità di base Fürstentum-Ständetum. La differenziazione strutturale sociale di fondo che contrappone l'Ungheria all'insieme dei territori austro-boemi e i particolarismi esistenti all'interno di questi ultimi rappresentano le coordinate costituzionali entro le quali deve esplicarsi la politica del principe, il più temibile e al tempo stesso inevitabile banco di prova di qualsiasi azione di riforma egli voglia tentare, tanto più se questa porta il marchio accentratore del mercantilismo. Calato sul magmatico terreno della Staatswerdung austriaca, il Gedankengut mercantilistico subisce modificazioni e contraccolpi che ne forgiano il nucleo originario. Ciò nonostante, in pieno Settecento, la già ricordata Forrede, pur mettendo in evidenza le differentias rei economiche in austriacis odierne e i mutamenti che il tempo ha prodotto rispetto alla situazione nella quale Hörnig scriveva, si premura di precisare che l'opera di quest'ultimo resta un Meisterstück basilare all'interno del quale viene indicato wie man pro materia substrata wohl und richtig denken müsse. In un periodo in cui la politica economica asburgica, con Carlo VI prima e Maria Teresa poi, sembra finalmente muoversi con decisione lungo le linee direttrici proprie del mercantilismo, facendo inoltre segnare importanti successi in tal senso, la preoccupazione di sottolineare la persistente validità della deutliche analytische Methode dell'opera Österreich über alles suona come il dovuto omaggio a uno dei primi capisaldi secenteschi di questo stesso indirizzo politico-economico. Anche dal punto di vista più strettamente teorico, del resto, nuclei tematici di fondo del mercantilismo leopoldino sembravano rivivere a nuova vita, almeno in parte, proprio nelle formulazioni più compiute del cameralismo teresiano. Ancora nella seconda metà del XVII secolo, il prototipo per eccellenza di tale dottrina, Joseph von Sonnenfels, porrà al centro della sua Staatswissenschaft preoccupazioni popolazionistiche degne della più pura tradizione mercantilistica di un Becher o di un Hörnig. Benché la Kameralwissenschaft, esplosa dalla nuova realtà costituzionale del Settecento tedesco, si situi sicuramente a un gradino più alto rispetto alla corrente mercantilistica attiva nel periodo di Leopoldo I, tuttavia l'eredità di Becher, Hörnig, Schröder continua a essere guardata come capostipite prima di un metodo che pone a proprio fondamento di vare kenntnis der geografie cameralis. Le numerose riedizioni dei capolavori del mercantilismo austriaco tardo secentesco, succedutesi l'una all'altra a ritmo incalzante, soprattutto nella prima metà del XVIII secolo, costituiscono la riprova più palese della vitalità di un patrimonio di idee ora più che mai riportato all'ordine del giorno dall'affacciarsi di più salde e accentrate strutture costituzionali e amministrative. Sussunte e integrate nel Settecento maturo in una progettualità rappresentata per antonomasia dall'opera di Sonnenfels, orientata a raggiungere nei diversi settori la allgemeine Wohlfahrt o Wohlfahrt eines Staates, le proposte di politica economica del mercantilismo leopoldino si situano ora nel quadro di una Staatswissenschaft all'interno della quale a volte possono persino subire cambiamenti radicali. Resta tuttavia inalterato il messaggio di fondo attorno al quale, pur procedendo da motivazioni di carattere essenzialmente economico, i grandi del mercantilismo degli anni 60-80 del XVII secolo avevano coagulato ogni riflessione teorico-politica, il collegamento di una Machtpolitik economica col problema stesso del rafforzamento del principe e dello Stato. Attraverso l'itinerario che conduce dalla instabile realtà interna e internazionale della monarchia di Leopoldo I alla creazione dell'efficiente sistema amministrativo teresiano, il patrimonio austriaco di modernizzazione non doveva tuttavia seguire una parabola in costante ascesa e incentrata esclusivamente su Vienna. Il suo tracciato è fatto piuttosto di una serie di oscillazioni, ritorni, di spinte provenienti da aree e da forze costituzionali diverse che, soprattutto a cavallo fra 6 e 700, imprimono al Mercantilisierungsprozess dei territori asburgici quel carattere composito, tipicamente austriaco, lungo le cui direttrici ogni progetto di riforma sembra configurarsi costantemente come difficile risultante di compromessi. Proprio in quanto epoca di transizione per eccellenza, il regno di Leopoldo si presenta dunque come centrale per quanto concerne sia la prima affermazione, sia le pieghe successive, secondo le quali verrà plasmandosi quella speranza tutta austriaca di nuova Einrichtung che d'ora in avanti permeerà di sé, abbracciando terreni sempre più diversificati, ogni progetto di modernizzazione. A un'unione commerciale dei Reichstände puntarono intorno ai primi anni 60 del 600 i progetti mercantili imperiali dell'epoca di Leopoldo, nello sforzo di trovare un'intesa economica fra i vari Länder dell'impero. Tale cooperazione, velata di forti tinte irenico-religiose, doveva costituire una garanzia di pace e unità interna nell'impero stesso, in modo tale che questo nel suo insieme fosse in grado di opporsi con successo alle minacce esterne dell'espansionismo turco e dell'egemonia politico-economica francese. Il francescano Cristóbal Rojas y Spínola è il maggior rappresentante di tale cementato Reichsmercantilismus, in cui elementi politici, economici e religiosi sono difficilmente separabili gli uni dagli altri e le cui proposte, proprio in quanto avevano assunto a proprio referente l'ormai fatiscente cornice del Reich, erano destinate a rimanere sulla carta. La compatta sfera economico-religiosa dello Spínola cede presto il passo negli anni 60-80 alla visione strettamente economica del grande mercantilismo dei Becher, Hörnig, Schröder. All'obiettivo di battere economicamente la Francia, questo brain trust mercantilistico per una breve stagione al diretto servizio di Leopoldo risponde proponendo una serie di misure atte a garantire la trasformazione dei territori ereditari asburgici in una forte Wirtschaftsgemeinschaft. I primi passi da compiersi in tale direzione devono muoversi sul terreno di una ferma politica protezionistica che si fa a sua volta base prima delle misure che il principe deve adottare per garantire lo sviluppo economico interno dei territori a lui soggetti e per trasformare questi in una volkreiche nahrhafte Gemeinde, secondo gli imperativi della Populosität e della Nahrung. L'estensione del mercato interno e il proporzionato incremento dell'agricoltura, delle imprese manifatturiere e commerciali devono essere realizzati attuando una serie di misure e provvedimenti miranti a regolare, a partire dal livello centrale, il complesso rapporto esistente fra produzione e consumo e a regolamentare la concorrenza. Così, se da una parte Becher consiglia di istituire Kaufhäusern, che rendano possibile la regolazione del commercio interno e la distribuzione delle materie prime di importazione, e al tempo stesso consentano un forte controllo statale sul commercio estero, dall'altra egli si spinge a proporre la creazione di manifatture statali modello Werkhäusern, il cui compito è di porsi come organi propulsori centrali dell'intero sviluppo manifatturiero. Una politica di credito oculata sarà garanzia di successo di tutti i provvedimenti a carattere economico-commerciale proposti e a tal fine Becher prospetta l'istituzione di una Landesfürstlichen Münz- und Wechselbank che di tale politica diviene lo strumento essenziale. Proseguendo su questa stessa linea, Schröder, da parte sua, progetta una ancor più perfezionata Landesfürstliche Wechsel- und Kreditbank, che rappresenta l'impresa statale di maggiore importanza e che si pone come la più potente forza motrice dello sviluppo economico. Cogliendo chiaramente il rapporto che lega il mercantilismo a una politica assolutistica condotta da parte del sovrano, Schröder sottolinea la necessità per quest'ultimo di assicurarsi una stehende Armee und Geld im Kasten. Il benessere dei sudditi è direttamente proporzionale alla floridità della Camera del Principe, le cui esigenze fiscalistiche, insieme con i problemi connessi alla creazione di una centrata organizzazione del territorio, divengono l'angolo visuale di fondo a cui Schröder riconduce la sua opera maggiore, la Fürstliche Schatz- und Rentkammer del 1686. Caduta ormai ogni utopica speranza di poter scegliere l'impero quale ambito di applicazione dei principi mercantilistici, si delinea dunque con accresciuta forza l'interconnessione esistente fra questi ultimi e un accentrato Stato unitario. Di contro all'egemonismo di Luigi XIV, Hörnisch, nella già citata opera Österreich über alles, individua nell'insieme dei territori ereditari asburgici il baluardo referente del suo progetto di autarchia economica, preoccupandosi inoltre di comprendere programmaticamente questi ultimi sotto il termine complessivo Österreich, di cui tiene a dare fin da principio una precisa definizione, in tedesco che salto. L'istituzione del Kunst- und Werkhaus tra 1676 e 1683 sembrò segnare il trionfo e la piena affermazione di tutte le richieste di una Erbländischen Manufakturpolizei, che erano state avanzate con sempre maggior insistenza dai tre grandi del mercantilismo austriaco nel periodo del loro servizio imperiale. Sorta sul Tabor a Vienna per iniziativa di Becher, che ne assunse da principio la direzione, questa manifattura laboratorio modello doveva diventare, nei piani del suo promotore, l'organo propulsore dello sviluppo manifatturiero dell'intera monarchia austriaca, provvedendo alla formazione di manodopera specializzata e nel contempo realizzando le strutture necessarie per un adeguato sviluppo delle tecniche di lavorazione industriale. Caduto in disgrazia Becher nel 1677, la responsabilità del Werkhaus passò a Schröder, che tentò di riorganizzare la produzione manifatturiera della lana, della seta e del cuoio, i tre settori che a suo avviso dovevano porsi come i pilastri portanti dello sviluppo economico della monarchia. Contrasti fra Schröder e gli organi di governo che dovevano garantire la copertura finanziaria dei suoi piani finirono tuttavia per ridurre in frantumi questi ultimi, vanificandone le linee di più ampio respiro. Durante l'assedio turco di Vienna, 1683, un incendio distrusse quasi del tutto il Werkhaus. Tale distruzione rappresenta simbolicamente la fine temporanea di ogni disegno di una Manufakturpolizei austriaca in grande stile, facente perno esclusivamente sul principe. Il fatto che i piani di ricostruzione avanzati da Schröder rimanessero lettera morta all'interno dei complicati circuiti amministrativi di corte, tutt'altro che alieni dalla potente vis inertiae degli stende, costituisce riprova ulteriore dell'arenarsi dei più organici progetti delle riforme economiche a carattere statale del grande mercantilismo austriaco. Già in precedenza, del resto, lo stesso Becher si era dimostrato consapevole delle difficoltà che, a livello istituzionale, si frapponevano al corretto funzionamento di ogni nuovo organismo economico. Egli individuava infatti una delle cause principali del mancato successo del Commerzkollegium 1666-1678 da lui fondato nella commissione di competenze che in campo economico si verificava fra la Hofkammer da una parte e le Hofkanzleien dall'altra. Il policentrismo istituzionale inerente alla costituzione stessa della monarchia asburgica si configura dunque come portatore di pesanti ostacoli per un settore chiave quale quello economico, più che mai bisognoso in un'efficiente prospettiva mercantilistica di un unico centro motore. Sotto l'urto coordinato della guerra su due fronti contro il nemico esterno, turchi e francesi, e delle spinte centrifughe dei Landstände, si sfaldava ora a cavallo degli anni Ottanta ogni integrato progetto di una Erbländischen Manufaktur Polizei puntata sul Landesfürst asburgico, così come in precedenza, a confronto con le eterogenee realtà costituzionali esistenti all'interno dell'impero, erano naufragati i sogni di una politica mercantilistica imperiale. Io ho letto i due primi capitoli, paragrafi della relazione della Gherardi e siamo circa a metà. Adesso leggerei, quindi dico alla traduttrice per favore, a differenza di quanto avevo annunciato prima, il terzo paragrafo non lo leggo, preferisco leggere la conclusione che è di sole 3 pagine e questo è reso obbligatorio proprio dalla strettezza dei tempi, come si dice. Fate conto che in mezzo la Gherardi parla in realtà di quel che accade nel corso del primo Settecento e di come questi fili così vigorosi e evidenti che ha illustrato finora si attenuano ma non scompaiono e anzi danno luogo a un intreccio di rapporti politici molto interessanti che poi alla fine danno i loro risultati verso la metà del secolo. Mi pare almeno che dica questo. Quindi la conclusione. È il paragrafo 5 a pagina 21 per la traduttrice. Profondamente integrato nella concreta prassi politica, economica e militare e attento anche a livello strettamente teorico, più alla pars amministrativa che alla pars costitutiva della politica stessa, il pensiero politico sbocciato in area asburgica nel corso di questo Staatsbildungsprozess riflette da vicino, anche nelle sue vette più alte, gli itinerari e le matrici di fondo di tale processo. Spesso in prima persona esponenti della politica attiva, i rappresentanti delle più vive correnti di pensiero austriache si preoccupano di sottolineare, anche a livello di metodo, la necessità di rimanere ancorati alla prassi e all'osservazione diretta, rinunciando a qualsiasi vuota invenzione propria di uno spirito speculativo. E come possono mai, è una citazione, uomiccioli privati giudicare delle cose di Stato? Chi non vide mai eserciti delle militari? Chi non fu mai in corte degli arcani dei gabinetti? Si chiede ironicamente Montecuccoli nella prefazione ai suoi aforismi dell'arte bellica, sottolineando per contro la necessità di attingere a piene mani direttamente a tempi, ai luoghi e alla materia moderna, secondo il metro sicuro della diretta esperienza. In campo economico, la stessa premura di mettere in rilievo la Vernunftmäßigkeit di un metodo volto a trarre i propri postulati dall'osservazione dei fenomeni economici stessi è manifestata da Hörnicht quando, a proposito delle sue 9 Grundregeln, che egli definisce vero e proprio Kameralalphabet, si preoccupa di assicurare Sie seien nicht die Invention eines spekulativen Geistes. Die Natur der Sachen selbst gibt sie dar. Die Vernunft bestätigt sie. Und aller Orten, wo Reichtümer blühen, werden sie alle oder zum Teil geübt. L'anello di congiunzione tra il mercantilismo leopoldino e la più organica progettualità cameralistica del Settecento maturo è rappresentato da una figura che risponde pienamente ai suddetti requisiti della personale esperienza politico-amministrativa e di una metodologia consapevolmente calata sul concreto terreno costituzionale della monarchia asburgica. Il boemo Christian Julius Schirl von Schierendorf, 1661-1726, lo Staatstheoretiker più significativo del primo quarto del Settecento austriaco. Dopo aver iniziato la sua carriera viennese negli ultimi anni di Leopoldo I, fu con Giuseppe I e Carlo VI, dai quali egli venne rispettivamente nominato nel 1705 segretario della Hofkammer e nel 1720 Hofkammerrat, che egli ottenne i suoi maggiori successi politici a corte, tentando costantemente, attraverso un'infinita serie di forschläge all'imperatore e ai suoi ministri, di adeguare e applicare i fondamentali principi del grande mercantilismo austriaco alla nuova realtà costituzionale, in atto dopo la pace di Karlowitz e di Passarowitz, 1718. In perfetta sintonia con le linee politico-programmatiche della Mercantilpartei, indirizzate a sfruttare pienamente, dal punto di vista economico-commerciale, le nuove acquisizioni territoriali della monarchia, al fine soprattutto di creare una salda rete di traffici verso l'impero turco, Schierendorf avanza specifici progetti per l'istituzione di una fitta trama commerciale internazionale in cui i territori asburgici, per la loro posizione centrale in Europa, rivestono il ruolo di basilare testa di ponte. Reminiscenze Becker-Schröderiane affiorano con chiara evidenza nelle proposte che Schirl, seguendo il filo rosso del mercantilismo in ogni possibile ambito, avanza nel suo scritto dotato di maggiore sistematicità. Il sintagma politico camerale dei quadruplici genere economie, scilicet rurali, camerali, militari et universali, ad statum regiminis domus auguste directum. I problemi relativi all'istituzione di una universale economia, che deve strutturarsi in vista di un'attenta regulierum des commercialum manufactur standes, sono passati singolarmente in rassegna nei diversi forschläge schierendorfiani, i quali ultimi, tuttavia, lungi dal rimanere ancorati esclusivamente alla problematica di carattere economico-commerciale, abbracciano un più esteso spettro di riforme attinenti le sfere della religione, del politicum, della giustizia, del militare e del camerale, diversi ambiti che devono tutti essere toccati da una profonda opera di riorganizzazione statale. Tutte le questioni attinenti la combinazione aller Erbländer devono essere poste sul tappeto in modo che i territori ereditari stessi possano essere finalmente uniti in ein perpetuum corpus. Una salda base statale diviene per Schierendorf la dimensione garante del successo delle singole iniziative riformatrici, così come queste ultime, a loro volta, se ben coordinate, possono contribuire a rafforzare la prima. Eppure anche le tendenze assolutistiche e centralistiche così chiaramente riscontrabili nell'opera di Schierendorf si intrecciano con marchio tipicamente austriaco alla seconda forza, non ancora spenta, esistente nella Staatswerdung in corso, das Ständetum. Se da una parte Schirr, guardando al Landesfürst, non risparmia strali contro gli eccessivi privilegi della nobiltà e del clero e la fastidiosa varietas legum et consuetudinum dei territori ereditari, dall'altra egli, più che a una riforma dell'amministrazione su basi del tutto assolutistiche, pensa a un miglioramento di quella esistente. Radici degli stende affiorano proprio nei momenti più originali delle proposte modernizzanti di Schierendorf. In gran parte permeata di spirito cetuale appare, per esempio, l'idea di una rappresentanza del gemeinen Mannes, cioè del ceto borghese e contadino, all'interno del Generalkongress di tutti i Länder asburgici, destinato nelle intenzioni di Schier a discutere il problema della successione al trono e insieme le più urgenti questioni del gesamten erbländischen Staat. Ancora una volta, anche nel massimo esponente del pensiero politico austriaco del primo Settecento, ritroviamo espressi quei principi cardine, Landesfürstentum, Ständetum, il cui faticoso compromesso sta alle fondamenta della Costituzione asburgica fra XVII e XVIII secolo. Pur orientato ai fari guida dell'assolutismo e del mercantilismo, il patrimonio ideale di modernizzazione sorto in ambiente austriaco si ricongiunge dunque, nel segno di una concreta prassi politica, agli itinerari della Staatsbildung in atto, itinerari di cui esso porta le inconfondibili tracce per aver consapevolmente rigettato ogni mera, astratta speculazione degna tutt'al più di uomicciuoli privati.